Io sono sconfitto, derelitto. Più procedo e più sbaglio tragitto. Distrutto, all'asciutto. Fuori c'è il sole, ma il tempo si fa brutto. E so che adesso io sono solo. Quest'estate, ma respiro l'aria del polo. Quanto vorrei spiccare il volo. Ma ho radici così grosse che mi tengono incollata al suolo. E di riverso me stesso, perplesso, non riesco. E mi metto sotto processo, alla continua ricerca di ciò che voglio. Fuori sereno, ma dentro un mortorio. E ne dovrei parlare, farvela pagare. Foglio a specchio e mi rivedo urlare. Passato da sponda a sponda. Ciò che avverto è che il male mi circonda. Sento il sospiro del vento sulla mia pelle. Sguardo basso, non si leva neanche per guardare le stelle. Cuore di pietra, vita discreta. Andiamo avanti per mai raggiungere una meta. Un piede dopo l'altro, ma il passo si fa incerto. Più che andare lontano, qui si ritorna indietro. Mi sta passando l'appetito, partito. Tutto così buono adesso è marcito. Sto distruggendo tutto, ma proprio tutto. L'elenco è lungo, capisci perché dico tutto. Ciò che ho, ciò che avevo e ciò che avrò. Mi sto sforzando, ma non riesco a dire no. Ottuso, ci sbatto il muso e ne abuso. Concluso, troppo confuso. Statemi lontani, non voglio farvi male. Talmente al limite che io sto per scoppiare.